Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Buon pomeriggio a tutte e tutti da Frey, questa volta in solitaria per quest'ultima puntata dell'anno di Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Come ormai è diventato un rito, anche quest'anno vi proponiamo una puntata intitolata Leggere di Storia 2018, una puntata in cui vi suggeriamo alcune letture, alcuni ascolti, lo scopriremo nel corso della puntata, per continuare a discutere, a leggere, a parlare e magari a imparare qualcosa della storia anche nel periodo delle vacanze in cui ci troveremo separati, perché come vi dirò più volte nell'arco della puntata torneremo in onda il sabato 12 gennaio. Entriamo subito nell'argomento. Noi abbiamo pensato di proporvi in questa puntata quello che abbiamo ritenuto come il meglio o le uscite più significative legate sempre all'argomento storico dell'anno 2018. Iniziamo però, anziché con un libro, iniziamo con un ascolto. Sentiamoci un pezzo e poi vediamo di cosa si tratta. As soon as I come home, I hear my little boy say, Daddy, Daddy, don't you leave me. Oh, Daddy, please don't go. Sonorità particolari, come avete sentito, che vanno un po' in là nel tempo. Chi è un po' più scafato con l'inglese potrebbe aver colto anche qualcosa del significato e magari averne riconosciuto anche l'autore. Lo scenario è questo: è una guerra, siamo dall'altra parte del mondo, siamo negli anni 50 e siamo in Corea. Stiamo parlando della grande sconosciuta, la guerra dimenticata, come alcuni l'hanno definita, che è stata quella guerra che ha portato alla divisione, alla stratificazione della divisione della Corea in due parti: da una parte una Corea democratica di ispirazione liberal-democratica capitalistica e dal nord una Corea che nominalmente sarebbe socialista. Il disco che vi abbiamo proposto è, si intitola Battleground Korea, Songs and Sound of America's Forgotten War. Un bel disco che ripropone dei pezzi che risalgono all'atmosfera della guerra di Corea, che risalgono a questa guerra per l'appunto dimenticata, schiacciata da un lato dal secondo conflitto mondiale di cui un'evidente memoria era rimasta e dall'altra dalla successiva guerra in Vietnam che ha veramente polarizzato il mondo. Si tratta comunque di una guerra molto, molto complessa che ha portato a 2 milioni di morti fra i civili e quasi altrettanto fra i due schieramenti che si sono confrontati. Una guerra che ha mosso, che ha diviso il mondo e che per la seconda volta, diciamo, per i giovani statunitensi li portava da un'altra parte del pianeta con una differente atmosfera che non era più quella della sconfiggere il nazismo, fight the nazism della seconda guerra mondiale, ma era un fight the communism, difendere la democrazia. Non lo so, fatto sta che di questa guerra spesso se ne è persa memoria. Noi abbiamo scoperto questo bellissimo disco Battleground Korea grazie a un articolo molto interessante che vi invito ad andare a recuperare perché è una delle uscite più belle di questo 2018 che abbiamo tratto da Buscadero, una rivista di musica. Il numero è il 414 del settembre 2018 e l'articolo è Battleground Korea, per l'appunto, di Marco Denti. Adesso ce ne sentiamo un altro pezzo e poi entriamo nel prossimo suggerimento. Bene, siete sempre con Vallun, siete sempre nella puntata natalizia di Suggerimenti di Natale. Il primo articolo che abbiamo messo sotto l'albero è un disco molto bello, Battleground Korea, dedicato alla guerra in Corea, a ricostruire l'ambientazione e l'atmosfera di quel conflitto. Adesso andiamo a recuperare una pubblicazione, un paio di pubblicazioni a film edite da Neri Pozza, che ci rimandano a un argomento di cui abbiamo già trattato sulle nostre frequenze. È uscito infatti il nuovo volume della serie dedicata alle sorelle Mitford, queste sorelle dell'alta aristocrazia britannica che vengono messe, personaggi storici, ecco, sia chiaro, che vengono messe al servizio di un'indagine. L'autrice è Jessica Fellows, che ha lanciato questa serie per l'appunto delle sorelle Mitford, sei sorelle per un mistero. È uscito in questi mesi Morte di un giovane di belle speranze, il secondo volume della serie, sempre edito da Neri Pozza, che racconta aspetti della società britannica ricorrendo agli strumenti e alla narrazione del giallo. Un libro che questo ancora noi non l'abbiamo letto, abbiamo letto solo il primo volume, ve ne avevamo parlato lo scorso anno in una puntata intitolata Le ragioni della casa, dedicata al racconto dei cambiamenti della società britannica e dei cambiamenti all'interno dell'aristocrazia britannica, partendo per l'appunto dal volume di Jessica Fellows e dalle ben più note forse operazioni filmiche e televisive dello zio Julian Fellows, l'autore di Downton Abbey e di Gosford Park. Per accompagnare la lettura di questa saga dedicata alle sorelle di Mitford, Neri Pozza ha pubblicato sempre nel 2018 una biografia vera e propria dedicata a questo sestetto di sorelle molto particolari, molto note all'epoca, con un libro che si intitola per l'appunto Le sorelle Mitford, biografia di una famiglia straordinaria, scritto da Mary Lovell. Un libro questo, anche questo, molto interessante, che magari ci permetterà di riparlare di aristocrazia britannica. In ogni caso, trovate la puntata dello scorso anno, Le ragioni della casa, sul nostro sito www.radiovallun.info. Adesso musicalmente un discreto cambio di scenario, cambiamo molto le sonorità perché andiamo a prendere un gruppo punk hardcore del territorio della nostra regione e ci andiamo a ascoltare un pezzo dei Contrasto, gruppo di Cesena, tratto dal loro ultimo album Politico Personale. È un disco che ci è sembrato molto interessante e se magari proprio non è proprio il pezzo da proporre sotto l'albero di Natale ai parenti, sicuramente è un disco su cui vale la pena ragionare fra quelli usciti nel 2018. I Contrasto sono un gruppo militante, fortemente impegnato, e se andate a spulciare su internet troverete anche precedenti dischi che hanno delle sonorità forti, ma allo stesso tempo hanno anche delle tematiche veramente, veramente molto decise. E la cosa interessante che possiamo notare ascoltando questo disco Politico Personale e il loro disco precedente del 2012 Andare ai Resti è il lavoro che loro fanno sulla memoria della conflittualità sociale e politica del Novecento. Partono dalla Resistenza, si immergono negli anni 70, arrivano al nostro presente raccontandolo in musica. Lo fanno pescando fra le pubblicazioni, fra i libri che hanno raccontato questi passaggi, che hanno raccontato questi movimenti, e riprendono. Se ascoltate Politico e Personale ci sono grossi riferimenti alla Gioia Armata di Bonanno, uno dei classici, diciamo, dell'anarchismo italiano, ma vengono citati anche libri di autori dell'autonomia operaia, delle formazioni della sinistra armata. Un esperimento molto interessante. Ce ne ascoltiamo il primo pezzo e poi andiamo a scoprire il prossimo suggerimento di lettura. Ecco, dopo queste tamburellate punk hardcore di riflessione che abbiamo preso da Politico Personale, l'ultimo album dei Contrasto, andiamo a raccontare un altro libro che ci ha colpito molto, che racconta sempre di impegno, di scelte, di politica anche in questo caso. siamo andati a prendere un libro che è uscito da poco, edito dalla casa editrice Donzelli, quindi una casa editrice di ottima qualità dal punto di vista della proposta scientifica, e siamo andati a prendere il libro di Massimo Castoldi, Insegnare la libertà, storia di maestri antifascisti. È un libro molto interessante. Massimo Castoldi ha ricostruito i profili biografici di decine, diciamo, anche di maestri e maestre. È interessante, noi non siamo mai entrati nella storia della scuola, pur essendo io un insegnante, però questa è la prima volta che lo facciamo, e questo libro mi ha colpito non solo per la vicinanza professionale con le storie trattate, ma anche perché va a prendere un aspetto molto particolare della storia dell'opposizione al fascismo, di cui purtroppo spesso si parla poco. Nell'arco di quest'anno si è parlato molto degli insegnanti universitari che dissero no al giuramento al fascismo, che non presero la tessera del partito fascista, storie anche quelle da ricordare, per carità, sia chiaro, ma dei maestri e delle maestre che numericamente hanno costituito una parte molto importante del nostro settore della formazione e allo stesso tempo hanno costituito una parte molto importante del personale dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, perché allora le maestre nelle scuole erano in parte di gestione comunale, che si sono rifiutate di aderire al fascismo, purtroppo poco se ne è parlato. E teniamo in considerazione che si trattava molto spesso di proletari e proletarie che avevano avuto con l'accesso all'insegnamento un gradino, un piccolo riscatto rispetto a una storia familiare fatta di magari di grande povertà, e soprattutto erano molte donne, e naturalmente, come è facile immaginare. Il libro di Massimo Castoldi, che recupera naturalmente sia fonti d'archivio che pubblicazioni, spesso poi le storie di questi maestri sono state raccontate soltanto a livello locale, racconta, ricostruisce dei profili, ricostruisce dei percorsi in cui notiamo delle somiglianze. Molto spesso si tratta di maestri e maestre socialiste che avevano iniziato la loro esperienza politica nell'arco del periodo che va dall'inizio del Novecento alla Prima Guerra Mondiale, che si erano schierate in maniera molto forte in una battaglia antimilitarista, ma abbiamo anche maestri cattolici, e sì, abbiamo dei percorsi che sono comuni, in cui forte è stato l'opposizione al fascismo come rifiuto di impartire un'educazione nazionalista e militarista, che avrebbe portato, come era facile immaginare, ad una guerra. Dall'altro lato abbiamo anche dei percorsi più originali, fra virgolette, perché abbiamo maestri che sono appartenenti alle minoranze etniche, che in quel momento il fascismo andava a colpire duramente. Mi ha colpito molto la storia del maestro sudtirolese Franz Innerhofer, spero di averlo pronunciato in maniera corretta, un maestro altoatesino del Sud Tirolo, che cadde nel corso della Domenica di Sangue di Bolzano del 1921, anche questo un avvenimento di cui si parla poco, quando i fascisti lanciarono delle bombe nella fiera di primavera, una fiera tradizionale della comunità sudtirolese, che veniva vista come una manifestazione di orgoglio austriacante, utilizzando il lessico dell'epoca, che doveva essere repressa nel sangue. Questo libro, Insegnare la libertà, storie di maestri antifascisti, edito da Donzelli, vale la pena di essere recuperato, perché racconta di una parte di antifascismo molto forte che spesso viene dimenticato, perché è una forma di resistenza civile al fascismo. Poi noi l'abbiamo sempre trattato queste forme, non abbiamo mai fatto la distinzione fra resistenza armata e resistenza civile, perché per noi è sempre stata una la resistenza, però come definizione quella di resistenza civile calza a pennello in questo caso, perché passava anche da piccoli atti come quello di rifiutare di vestire la divisa del fascismo. Adesso un pezzo che ci guida al prossimo suggerimento. Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va, perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile,

siete sempre su Vallun, che vi guida per l'appunto negli ultimi suggerimenti da mettere sotto l'albero per leggere, discutere e parlare di storia anche durante le vacanze. Abbiamo preso un pezzo di Fabrizio De André perché di De André vi consigliamo per l'appunto una lettura. Allora, sappiamo tutti, è noto che il cantautore genovese fosse più che simpatizzante, diciamo, fosse proprio un anarchico, e per cui ci è sembrato utile suggerirvi un libro edito da A Rivista, la rivista anarchica, il mensile anarchico che fa base a Milano, e che ha editato questo bel libro a cura di Paolo Finzi, intitolato Che non ci sono poteri buoni, il pensiero, fra parentesi, anche anarchico, di Fabrizio De André. Con quest'ultima lettura arriviamo alla conclusione dei suggerimenti natalizi di Vallun, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, e per questa puntata abbiamo una bella sorpresa, nel senso che abbiamo lanciato sulla nostra pagina Facebook caso S-Vallun On Air un sondaggio per chiedere ascoltatori e ascoltatrici appassionati e appassionate di suggerirci qualche libro. Ilenia e Valentina hanno risposto all'appello e ci hanno dato due bei suggerimenti. Uno, un libro un po' tosto, questo magari da acquistare in periodo natalizio approfittando delle offerte, ma magari da leggere un po' più avanti, che però è un bel libro. Si tratta di Dario Melossi e Massimo Pavarini, Carcere e Fabbrica alle origini del sistema penitenziario, che è una ristampa del Mulino di un libro sempre edito dal Mulino nel 1977. Una bella riflessione sul sistema penitenziario e sul sistema fabbrica, riflessioni che si facevano negli anni 70, adesso magari si fanno un po' meno. L'altro suggerimento è Piccola città, una storia comune d'eroina di Vanessa Roghi. Vanessa Roghi eravamo ospitata un paio d'anni fa, trovate la puntata in podcast sul nostro sito www.radiovallun.info. Nella puntata Storia culturale dell'eroina, Vanessa Roghi l'avevamo intervistata proprio da questo punto di vista, come dice il titolo, una storia culturale dell'eroina, partendo da un suo articolo pubblicato su Piccola città che raccontava della diffusione dell'eroina a Grosseto. Vanessa Roghi l'ha trasformata in un libro che vale veramente la pena leggere, che è edito dalla La Terza, è uscito nel 2018, che è un ottimo acquisto. Bene, per oggi è tutto, Frey in solitaria vi fa gli auguri di buone feste laicamente da parte di tutta la redazione e appuntamento al 12 gennaio. Ciao!